È dedicato a bambini e ragazzi fra 0 e 20 anni il Bookstock Village, un intero padiglione del Salone del Libro. Sono loro i maggiori divoratori di libri in Italia. Il picco si raggiunge durante l'adolescenza, mentre dopo i 16 anni i lettori diminuiscono. A scegliere i temi del Bookstock Village sono stati anche alcuni studenti. Gli è stato chiesto di trovare un nome a cose e fenomeni nuovi. Un esempio? Rinuncianesimo, come spiega Andrea Baiani, scrittore e direttore del Bookstock. Loro hanno coniato la parola rinuncianesimo, che era il modo di nominare una cosa che si è affacciata adesso, ovvero la tendenza a rinunciare ancora prima di provare a fare le cose. E questo è, diciamo, un'eredità pesante che gli arriva dal mondo degli adulti. In tema con il resto del salone, al Bookstock un laboratorio di editoria digitale con 15 tablet a disposizione dei più piccoli. Del resto è a loro che guardano gli editori. Se oggi gli ebook rappresentano solo l'1% del mercato, fra qualche anno, quando chi è nato con il computer sarà adulto, i numeri inizieranno decisamente a cambiare. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.